dovete scegliere il legno con la densità più alta, che si calcola dividendo la massa per il volume. Ogni legno ha una massa di 10 kg e i volumi sono rispettivamente quercia, 5 metri cubi, olmo, 7 metri cubi, pioppo, 6 metri cubi. Quale di questi ha la densità maggiore?